Colonia e che è anche per questo un mio caro amico, insomma, oltre che in certa misura maestro, perché è più vecchio di me. Ecco, ha tentato di venire da noi, purtroppo a girare in un periodo che è un po' disagiato dal punto di vista della frequenza, eccetera, perché studenti non si deve raggiungerli, anche molti colleghi hanno approfittato di situazione per gestire perigli, quindi così. Tuttavia è un peccato perché poi si dovrebbe parlare stamattina di una ricerca, no, di cui ha iniziato, insomma, da poco, relativamente poco, appunto, il cammino, e che invece è una ricerca che coinvolge dell'energia a livello internazionale molto importante, se non mi sbaglio, perché facciamo un riferimento. Il tema, come lo conoscete, comunque è un tentativo, se ho ben capito, di analizzare, di studiare la formazione del mercato capitalistico attraverso un'indagine, direi, di tipo strutturalistico, se è possibile dire così, sì, che si riferisce appunto al campo della moda con riferimento al problema di sete. Io ti do soltanto la parola. L'idea sarebbe questa, che tu fai una relazione il più possibile semplice didascalica, in modo che noi poi possiamo su questa fare qualche intervento e quindi andare avanti un'altra retta di discussione, perché sereni andiamo a Virazzano, dove va bene. Ma io prima di tutto ti vorrei ringraziare per questo invito e vorrei ringraziare anche il direttore di questa istituzione, Prodi, e poi vorrei ringraziare anche voi che, insomma, è una domanda come questa così bella, no? Che di solito siete venuti ad ascoltare. Voi conoscete il titolo di questo seminario, di questa chiacchierata, quindi io non parlerò a lungo, parlerò penso poco più di mezz'ora, e quindi ci sarà tutto il tempo per la discussione. Le storie della rivoluzione industriale e del capitalismo. Leggo, perché è una cosa che richiede anche una precisione che io non riesco ad avere, insomma, se non leggo. Gli storici della rivoluzione industriale del capitalismo hanno giustamente sottolineato l'importanza della produzione di massa. Un concetto, questo della produzione di massa, quasi sempre associato, per un riflesso oramai meccanico, a una circolarità di segni in cui si individua facilmente l'idea di prezzi bassi, quella di qualità media inferiore e di vasti mercati. No. Sono concetti che si rinviano tra di loro. Produzione di massa, prezzi bassi, qualità media inferiore, vasti mercati. Un universo semantico che si incarna verso la fine del secolo XVIII nel cotone, a cui è stato riconosciuto un ruolo fondamentale nella prima fase della rivoluzione industriale in Inghilterra. E qui penso alle opere di Paul Mantoux, oppure all'opera della Dean, ma quasi tutti, insomma, no? L'unica eccezione forse è quella di Paul Baross, che invece sottolinea, come voi sapete, l'importanza della produzione di massa, sì, ma non del cotone, del ferro. La concorrenza sul prezzo e l'incontro dell'offerta e della domanda globale in un mercato di libera concorrenza appaiono i riferimenti concettuali più universali di uno sforzo interpretativo sostanzialmente ancorato alla visione dell'economia classica, meglio neoclassica. Largamente ignorati, ma in ogni caso sottovalutati e sottoutilizzati, sono invece i concetti di concorrenza sulla qualità del prodotto e non sul prezzo, del no price competition, di competizione, di concorrenza monopolistica, di barriera all'entrata e di spese di vendita. Forse perché si pensa che questi concetti hanno validità, del resto controversa e non da tutti riconosciute, solo nelle società capitalistiche mature, contemporanee, e siano irrilevanti nelle economie del passato. L'idea è nucleata da Piero Sraffa, e questo è il punto di riferimento concettuale più importante, l'idea è nucleata da Piero Sraffa nel famoso articolo del 1926, The Law of Returns on the Competitive Condition, e poi sviluppato e articolato da Edward Chamberlain e anche da John Robinson, sono per molti storici quasi lettera morta. In questa comunicazione vorrei mostrare che l'uso di questi concetti può dare visibilità a una galassia di fenomeni finora in ombra e di cui si dovrà valutare il significato dal punto di vista dello sviluppo del capitalismo. Il tema di partenza ha per oggetto la moda e i tessuti di seta. Se incominciamo a esplorare il termine seta, scopriamo immediatamente che esso evoca caratteristiche che sono specularmente e simmetricamente opposte a quelle del cotone. Il cotone vuol dire prezzi alti, il cotone vuol dire, la seta vuol dire prezzi alti e il cotone invece prezzi bassi. La seta è alta qualità, qualità di lusso, il cotone qualità media inferiore. La seta è il mercato ristretto e il cotone invece i vasti mercati. Tutte queste caratteristiche, le caratteristiche che ha appunto la seta, sono considerate generalmente negative e io credo con ragione. Ma nessuno può negare, in una certa ottica penso con ragione, ma nessuno può negare che l'influenza della moda si manifesta con maggiore evidenza nei prodotti di lusso, per questo scelgo la seta, che hanno per l'appunto caratteristiche opposte a quelle del cotone. Di qui la scelta della seta per meglio evidenziare i fenomeni della moda. Sarebbe tuttavia errata una piatta identificazione di lusso e moda. Il lusso del rituale ufficiale delle corti, del cerimoniale ecclesiastico e dei tribunali è spesso arcaizzante e fuori moda. Pensate alla cerimonia dell'incoronazione imperiale di Napoleone, no? Oppure pensate anche al cerimoniale di corte della corte di Luigi XVI alla fine del Settecento. No? Durante le cerimonie ufficiali, anche Maria Antonietta, il re vestono degli abiti che normalmente non vestono. È vero piuttosto che la secolare polemica contro il lusso, e questa polemica è implicita nei privilegi teorici concessi al cotone, ha finora costituito un notevole ostacolo epistemologico per l'analisi dei fenomeni riuniti sotto il nome di moda. Con qualche eccezione, la più notevole direi quella di Werner Sombart, che ha scritto questo libro importante, Luxus und Capitalismo. Certo, la moda è stata oggetto di numerose indagini e ha ricevuto anche numerose spiegazioni. Il desiderio di piacere, la volubilità della natura umana, l'espressione della cultura del tempo. Queste spiegazioni sono senza dubbio interessanti, ma non spiegano perché la moda abbia trionfato essenzialmente solo nell'Occidente capitalistico, diciamo tra virgolette capitalistico, e non invece nei paesi del Medio e dell'Estremo Oriente. Già nel 1609 il segretario dello Shogun Maedo, Tokyo, rimproverava agli spagnoli la varietà dei loro costumi, un campo nel quale sono così poco costanti che ogni 2 anni sono vestiti in un modo differente, mentre in Giappone da più di 1000 anni il costume non è cambiato. E a queste immobilità possiamo allineare l'India e la Cina, come risulta dalla lunga sequela di citazioni e di considerazioni del capitolo 4, sezione 3, della civilizzazione materiale e capitalismo di Fernand Braudel. Come spiegare queste differenze? Perché qui la moda, in questo Occidente la moda, e non invece in Asia, in Giappone, in Cina, in India? Si potrebbe dire, in prima approssimazione, che la moda è propria delle società caratterizzate da una certa mobilità sociale, ma dove le strutture gerarchiche sono sufficientemente flessibili da consentire l'imitazione del comportamento dei ceti superiori da parte di quelli inferiori. Vivere morum nobilium non vuol dire solo acquistare terre e possedere rendite, significa vivere e vestire come i nobili. Ma quando le distinzioni visibili degli ordini, dei ceti, non sono più regolate e fissate dal costume o anche dalla religione e cadono in disuso le leggi suntuarie, ecco allora scattare il meccanismo analizzato da Veblen per spiegare il comportamento delle classi adatte. Agli sforzi imitativi delle classi e dei ceti inferiori in ascesa, le classi dirigenti rispondono con nuove mode, con nuovi modelli di consumo, producendo la premessa per nuovi sforzi imitativi destinati ad essere periodicamente frustrati. Nasce così un processo specifico, un inseguimento senza speranze in cui il livello sociale di un gruppo o di una classe o di una regione può essere misurato dagli anni di ritardo con cui si veste. Questo forse è un po' meno vero. Ma qual è il rapporto fra classe agiata e i creatori di moda? Qui occorre prendere le distanze, secondo me, dall'analisi di Veblen, secondo la quale i creatori sono artigiani in posizione inferiore, servile. La moda, l'alta moda, è il prodotto di decisioni relativamente centralizzate,